Io rappresento la FABI, il sindacato autonomo dei bancari, che è in che nel mondo delle banche raccoglie la maggior parte dei colleghi e delle colleghe che lavorano in questo mondo. Quindi abbiamo quasi, siamo intorno ai 105.000 iscritti a livello italiano. A Bologna siamo il più significativo e questo ci porta ad avere una grande responsabilità nei confronti delle nostre colleghe e dei nostri colleghi nel portare avanti le vertenze sindacali. Però ci siamo poste una domanda: cosa possiamo fare di diverso in questo, nel nostro mondo del lavoro, per cambiare una dinamica che è ben costituita e che conosciamo molto bene, degli stereotipi? I dati dell'ABI parlano chiaro: abbiamo un 48,8% di donne che lavorano nelle banche, ma in realtà l'alta dirigenza è composta solo dal 20% delle donne. Il fatto che ci siano poche donne è un problema, anche economico, e credo che nelle banche sia stato molto chiaro. I risultati che abbiamo visto in questo ultimo periodo di quello che è successo nel mondo delle banche dice che gli uomini non sono stati poi così brillanti nel condurre le loro aziende, e chiediamo una maggior presenza delle donne. Gli stereotipi sono molto presenti nel nostro mondo e sono subdoli, ma sono presenti culturalmente nella nostra società. Credo che siano sotto gli occhi di tutti, più banali: la suddivisione dei lavori, il fatto che le donne sono così brave nelle agenzie, ma per diventare direttrici e per crescere è un problema. Noi ci siamo fatti queste domande e abbiamo pensato a questo evento, che è una goccia a livello, nel mare degli stereotipi, che vuole solo creare consapevolezza e che non si vuole fermare qua, ma che vuole anche proseguire, perché il parlarne aiuta sempre. Quali sono gli stereotipi di genere più diffusi, secondo lei, nel mondo del lavoro, magari in particolare proprio nel mondo del lavoro bancario? Nel mondo del lavoro delle banche le donne sono molto brave, perché le loro qualità relazionali sono ormai state riconosciute, quindi ne vengono assunte molte laureate, perché il 38% sono laureate contro il 33% degli uomini. Poi e la loro carriera si ferma lì, perché sono tanto belle, sono tanto carine, sono tanto disponibili, ma probabilmente non vengono considerate all'altezza di condurre, di gestire loro le loro filiali. E gli stereotipi sono tra i più comuni, quelli che si sentono di più, ovvero le carriere legate esclusivamente a favori, i più banali direi. Quali sono le iniziative organizzate in concreto dalla FABI per abbattere questi stereotipi? Guardi, noi ci siamo, come risposta alla domanda che ci siamo fatti, cosa potevamo fare per abbattere questi stereotipi, abbiamo pensato di chiamare tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a questa assemblea, nella quale abbiamo deciso di dare un taglio economico. Noi lavoriamo nelle banche, abbiamo a che fare con i soldi, perché le banche trattano di questo, e noi parliamo non di violenza, anche di violenza cruda, ma di come la discriminazione possa passare anche da un diverso trattamento economico. Abbiamo chiamato la professoressa Luisa Rosti, docente presso l'Università di Pavia di Economia di Genere, che spiegherà come la discriminazione è un problema economico per la società. Il discriminare e far sì che le donne non raggiungano posizioni apicali nella nostra società e nelle nostre aziende è una perdita. Dopodiché interverrà Valeria Donofrio della Casa delle Donne, anche responsabile della comunicazione per la Casa delle Donne e responsabile del Festival La Violenza Illustrata, come dirà che la discriminazione, che può sfociare anche in violenza, passa sempre e comunque dalla dipendenza economica. E il nostro avvocato di federazione, l'avvocato Paolo Berti, giuslavorista di Torino, che racconterà le cause che lui ha portato avanti e che ha vinto sulla discriminazione, vincendone anche in Italia una sul licenziamento per discriminazione, che è davvero una conquista grandissima in questo paese. Le leggi le abbiamo, ma la loro applicazione è sicuramente molto difficile.